E allora, di nuovo in diretta, buongiorno di nuovo a tutti e tutti, sono le 11:26-27 e adesso appunto inizia la rubrica Africa in Movimento. Parteremo quest'oggi col contributo di Anthony, che salutiamo. Ciao, ciao a tutti. E allora, la questione dell'Egitto, l'abbiamo vista nell'articolo di Michele Giorgio, l'abbiamo letto dal manifesto stamattina, la manifestazione di ieri, questo contrasto tra il governo che tenta una stabilizzazione appunto di regime, un regime mica tanto diverso da quello di Mubarak, con persone, cioè non c'è più Mubarak, ma cooptando casomai la leadership dei Fratelli Musulmani, che pare che ci sembra che ci stiano a questa stabilizzazione, in contrasto invece con la loro base, in parte sembra, diceva Michele Giorgio, comunque di quelli che hanno partecipato alle mobilitazioni, che non vogliono questa stabilizzazione. Allora, a livello attuale, allora si crea questa duplicità, questo doppio dinamica che va approfondita a fondo, tra una al vertice si tenta una stabilizzazione a questo livello, quindi lasciando inalterato il regime, cambiando casomai gli uomini, su queste stesse politiche economiche, utilizzando il piano Marshall varato dal G8 di questi 20 miliardi di dollari, ma parte, la gran parte la riprenderà l'Egitto perché interessa questa stabilità, e dall'altra parte però i movimenti di lotta che continuano perché hanno capito che questa stabilizzazione è contro di loro. Questa è la prima parte della discussione. La seconda parte vedremo appunto le ripercussioni, o comunque tutto ciò, tutte queste rivolte, le ripercussioni che hanno in termini di dinamiche di immigrazioni, che si aggiungono a quelle precedenti, e questo ne discuteremo. Praticamente si continuerà la discussione che si è iniziata tre giorni fa alla SNIA con il centro antirazzista. Dillo tu, scusa. L'osservatorio antirazzista. L'osservatorio, sì, io sbaglio sempre, il centro osservatorio. È la compagna Veronica che salutiamo dell'osservatorio antirazzista, che appunto il tentativo di coniugare, di capire anche come portare avanti, per quanto riguarda il nostro contributo, da una parte le rivolte appunto nei paesi arabi, comunque quest'area qui che si è rivoltata, e dall'altra parte le politiche migratorie, che appunto non hanno nemmeno in questa fase politiche di accoglienza da parte europea, anzi di respingimenti. Sì, assolutamente, quindi diciamo, un programma abbastanza ricco, cercheremo di essere il più sintetici possibili. Cominciamo appunto con la situazione in Egitto. Ieri pomeriggio, anzi da ieri dalla mattina, sin dalla mattina, come avete sentito dalla rassegna stampa fatta appunto poche ore fa, leggendo l'articolo di Michele Giorgio, vi è stata appunto una manifestazione imponente a Midan Tahrir, la piazza principale, centro della rivolta egiziana da qualche mese a questa parte. Una manifestazione che in realtà non vogliamo tentare di descrivere, di analizzare nella sua partecipazione, quanto per le dinamiche che hanno portato alla sua organizzazione, dinamiche che ci possono mostrare le tensioni interne al cosiddetto movimento, o comunque agli attori protagonisti delle mobilitazioni delle ultime settimane. Salvo prima parlava delle tensioni interne al movimento dei Fratelli Musulmani, dei tentativi di cooptazione portati avanti dal Consiglio Supremo delle Forze Armate nei confronti della leadership di tale movimento. Bisogna però fare un passo indietro e cercare di capire quali sono le tendenze interne appunto a coloro che protestano, ai manifestanti. Diciamo che c'è un'ala più moderata all'interno di questo gruppo molto diversificato, è un'ala più radicale, in maniera molto schematica. L'ala più moderata è quell'ala che da molte settimane oramai sta cercando un dialogo costante con il Consiglio Supremo delle Forze Armate, un'ala che in realtà sostiene questo processo di transizione e anche le modalità che sono state portate avanti dal Consiglio Supremo delle Forze Armate durante questo processo. Quindi si chiede in primis, quest'ala più moderata chiede in primis i processi, comunque processi equi per le personalità di spicco del ex regime di Mubarak, chiede un processo di riforme politico accelerato per arrivare quindi fino alle elezioni dell'Assemblea del Popolo, ovvero del Parlamento, che avverranno nel settembre di questo stesso anno. L'ala più radicale in realtà, da qualche settimana a questa parte, con un'accelerazione che si è prodotta soprattutto dopo le manifestazioni in supporto, diciamo comunque per ricordare la Nakba delle due domeniche fa, se non sbaglio, quest'ala più radicale invece fa un'analisi un po' diversa di quanto sta avvenendo. Anzitutto parla espressamente di un processo quasi controrivoluzionario del Consiglio Supremo delle Forze Armate, in diciamo combutta comunque assieme alle potenze, ad alcune potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti, per cercare di controllare le spinte che dal basso si sono prodotte in Egitto nelle ultime settimane. Loro appunto rivendicano quindi anzitutto l'allontanamento di questa giunta militare, perché di giunta alla fine si tratta, vorrebbero la costituzione di un governo di civili, quindi con solo un esponente rappresentante i militari all'interno, e la costituzione di una nuova carta costituzionale, nonostante il referendum che è avvenuto un mese e mezzo fa più o meno in Egitto e che in realtà ha portato solo ad alcune modifiche della carta costituzionale che appunto era stata già risaliva ai tempi di Sadat, poi modificata da Mubarak. Loro vorrebbero invece una riscrittura totale, nonostante quel referendum di appunto qualche settimana fa aveva approvato gli emendamenti costituzionali con un tasso di votanti per il sì del 70% e passa, quindi comunque una maggioranza abbastanza importante. Loro quindi rivendicano una riforma più radicale. Da questo punto di vista in realtà sono sostenuti anche da alcuni movimenti istituzionali. Tutto il movimento che girava attorno al Baradei, per esempio, almeno nella forma, sosteneva queste rivendicazioni, cioè la costituzione di una nuova carta costituzionale ex novo. Il problema è stato poi però nelle pratiche durante questa manifestazione. Perché? Perché i più moderati volevano appunto, rivendicavano la costituzione di una manifestazione, di una mobilitazione che arrivasse quindi nella piazza principale del Cairo fino poi a sciogliersi alle 6 del pomeriggio. Un'altra parte, questa la più radicale, invece rivendicava che cosa? Rivendicava la costituzione, la formazione di un sit-in permanente sulla piazza, quindi sulla falsariga di quanto avvenuto qualche settimana fa e che ha portato, che ha portato alla cacciata di Mubarak, e un sit-in che sarebbe rimasto stabilmente impiantato a Midan Tahrir fino al momento dell'ottenimento delle appunto rivendicazioni fatte. Questi due, in questo binario appunto si sono poi collegati i differenti partiti o comunque i differenti gruppi istituzionali che in Egitto si stanno muovendo sullo scenario politico. I Fratelli Musulmani, per esempio, dicevano che, almeno la leadership della Fratellanza, affermava che non era necessario in questo momento partecipare alla manifestazione. Addirittura alcuni leader hanno parlato di una manifestazione che andava contro gli interessi del popolo egiziano. Questo da parte delle leadership. I giovani della Fratellanza Musulmana, invece, molto più attivi e anche molto più propensi a stringere legami con altre parti del movimento, hanno deciso di non obbedire ai diktat della leadership del movimento della Fratellanza Musulmana e sono scesi in piazza anche appunto con l'intenzione di continuare nel sit-in del post 18, insomma, dopo le 6 del pomeriggio. Questa distinzione interna alla Fratellanza Musulmana è una distinzione che nasce dalle differenti generazioni che compongono il movimento sin dagli anni 80, quando ovvero le generazioni più giovani cooptate dopo le contestazioni fortissime fatte all'epoca di Sadat, quindi dal 71 all'80, furono appunto cooptate all'interno del movimento della Fratellanza Musulmana e che dovevano, secondo la leadership dell'epoca, costruire consenso sociale nei confronti del movimento dove? Nelle strutture universitarie e nei luoghi di lavoro, dove erano più presenti. La struttura verticistica della Fratellanza Musulmana, che anche nell'esercito, assolutamente sì, anche nell'esercito, dove naturalmente anche lì vi è una forte distinzione tra giovani e appunto quadri dirigenziali. Questa distinzione si è riprodotta negli anni 90, si è riprodotta ancora oggi e durante le insurrezioni che ci sono state, le mobilitazioni. Se pensate che nel marzo, ne abbiamo già parlato altre volte, di questo stesso anno vi era stata una conferenza dei giovani della Fratellanza Musulmana, non proclamata, non organizzata dall'elite, diciamo, dai quadri dirigenti del movimento, che rivendicava riforme radicali all'interno della stessa struttura del Nizam della appunto Fratellanza Musulmana. Rivendicavano una presenza maggiore dei giovani all'interno degli apparati decisionali, perché vedevano che l'attitudine al compromesso dell'elite dirigenziale non rispecchiava le loro esigenze, le loro posizioni politiche. Parlando con un blogger egiziano recentemente intervistato da noi di Africa in Movimento sulla situazione interna alla Fratellanza Musulmana, lui ci ha prospettato l'ipotesi della costituzione in realtà di numerosi partiti che saranno poi in realtà afferenti alla corrente della fratellanza musulmana in Egitto. Quindi probabilmente, almeno secondo lui, ci sarà una sorta di disgregazione formale del movimento della fratellanza musulmana, che però in linea generale tenderà a sostenere la leadership anziana per quanto riguarda la partecipazione allo scenario politico istituzionale egiziano che si verrà a creare dal settembre in poi. In riferimento poi a questa intervista ve la presenteremo integralmente nella prossima settimana, quando riusciremo a sbobinarla e a tradurla in italiano in modo tale da renderla fruibile a tutti. Quindi la situazione dal punto di vista della fratellanza musulmana è questa. Poi l'Egitto adesso qual è la situazione? Dal punto di vista del appunto quello, appunto proprio quello stavo dicendo, perché sembra che stia avvenendo quanto accaduto in Africa subsahariana negli anni 90, quando ci sono state le prime tensioni e rivolte dopo l'89, diciamo 88-89, nell'Africa subsahariana, da parte delle popolazioni che dal basso rivendicavano maggiori diritti sociali e politici nei confronti, o comunque contestando, quei regimi oppressivi che erano lì ormai da più decenni. Cosa ha fatto l'Occidente, in primis l'Europa e gli Stati Uniti? Hanno aperto questa fase delle democratizzazioni, dove a fior di milioni si è costruito un processo di pseudo multipartitismo, ovvero i regimi al potere dovevano aprirsi alle nuove forze politiche che dal basso, secondo loro, si sarebbero poi proposte nelle varie assemblee parlamentari, e quindi questo multipartitismo avrebbe dovuto portare, attraverso anche una politica di sostegno economico, una maggiore apertura delle società, non solo ai capitali stranieri, soprattutto quello, ma appunto, come dicevano loro, per la costruzione di un nuovo continente più aperto e bla bla bla. Diciamo che in Egitto, dopo le spinte che si sono prodotte dal basso negli ultimi mesi, sembra stia accadendo la stessa cosa. Obama e tutto il G8 in realtà hanno parlato di questo sostegno, come dicevi tu prima, di circa 20 bilioni di dollari, insomma, per tutti i paesi in rivolta. Questo già potrebbe significare che, insomma, rivoltarsi fa teoricamente fa pure bene, perché fa pure guadagnare. Ora, a parte, però, se scegli la democrazia del dollaro, non altre democrazie, non sono previste. È una battuta. A parte questo, oltre a questi interventi, quindi di sostegno economico, e poi parleremo anche del perché di questo attivismo, diciamo, del G8, poi Obama e tutto l'establishment americano ha parlato anche della costituzione di una zona di libero scambio tra l'Egitto, proprio in particolare, e gli Stati Uniti. Mm-hmm. Questo per far sì che la nuova economia egiziana che si costruirà nel post elezioni di settembre sia ancora più vicina al, appunto, amico statunitense. Questo perché? Perché in Africa adesso, e ne parleremo anche a breve, c'è comunque una concorrenza tra differenti gruppi, no? Quando si parla di scontro interimperialista, tra differenti grandi gruppi che vogliono, appunto, continuare a sfruttare il continente. Se prima il continente africano, se prima vi era solo la parte, diciamo, Europa, Stati Uniti, ora ci sono potenze asiatiche emergenti, la Cina, l'India, come Russia, anche le potenze della penisola araba, le monarchie, certo, insomma, sì, del petrolio, e la Russia, che stanno entrando nel continente con capitali, diciamo, freschi. E quindi lì gli Stati Uniti sono per primi intenzionati a cercare di mantenere una loro influenza sul paese. Quindi zona di libero scambio, ricordiamolo che è stata promossa e incoraggiata dallo stesso Consiglio Supremo delle Forze Armate qualche settimana fa, che parlava della necessità di nuovi investimenti, di soldi freschi per l'Egitto al fine di garantire una stabilità. Quindi qui la stabilità del paese diviene quasi una merce di scambio per ottenere diciamo, maggiori finanziamenti dall'esterno, e quindi anche controllare maggiormente la società civile. Quindi, diciamo, la situazione in Egitto in questo momento è di una profonda divisione all'interno della società egiziana tra chi vorrebbe produrre una lotta, diciamo, ad oltranza, e che vede come principale nemico visibile il Consiglio Supremo delle Forze Armate, esatto, che comunque si è dimostrato un potere conservatore con le leggi che ha promosso nelle ultime settimane. Ricordiamolo, la legge che ha vietato, che vieta le manifestazioni di piazza quando, a loro giudizio, queste impediscano, comunque potrebbero impedire, il libero esercizio delle attività economiche, sia private che pubbliche, l'intervento all'interno delle università. Quindi in realtà c'è un processo di un'attitudine conservatrice da parte del Consiglio Supremo delle Forze Armate, e chi invece preferisce una stabilità dopo quanto già ottenuto, che per loro, insomma, era, per questa parte più moderata, era comunque, è considerato già tanto. Allora, io adesso vorrei passare la parola a Veronica, ciao, mi scuso di prima, l'osservatorio, che io chiamo sempre centro, l'osservatorio. Le ripercussioni di queste vicende, probabilmente più quelle sulla costa meridionale del Mediterraneo, che hanno prodotto la Libia e la Tunisia un grosso afflusso di migranti, però in generale queste dinamiche portano un grosso, quindi che problemi pongono e come dal vostro punto dell'osservatorio cioè, ragionate, come analizzate questa fase della migrazione, dei nuovi flussi migratori e la non accoglienza diciamo che, e dentro questo spazio qual è l'iniziativa che possono produrre i movimenti. Insomma, allora, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Sì, io sono Veronica dell'Osservatorio Antirazzista Pigneto Torpignattara, si ho detto il nome una volta per tutte. Allora, parto appunto dalle domande e le questioni che si sono state affrontate fino adesso. Questo rapporto anche con la trasmissione Africa in Movimento nasce appunto in una serie di incontri che l'osservatorio ha iniziato a costruire a partire dallo scorso mese, dei momenti di autoformazione vera e propria su quanto sta accadendo appunto nel Mediterraneo e nell'Africa, nel Medio Oriente. E cercando anche appunto di capire qualcosa per quello autoformazione con un occhio ovviamente a ripercussioni che poi hanno sul territorio perché è più nelle nostre corde. Il primo incontro appunto era stato a maggio parlava della Libia, mentre l'ultimo incontro, questo qui che si è tenuto alla SNI il 25 maggio scorso, mercoledì, ha cercato di introdurre, grazie poi soprattutto anche a Anthony che ha partecipato anche lui all'incontro, dando una descrizione di quello che di come l'intervento straniero dalla notte dei tempi ha esercitato poi un effetto su effetti diversi su quel continente, con ripercussioni anche ad oggi nel nostro mondo, quindi attraverso le migrazioni. Cerco di essere più chiara. Come appunto le guerre oggi in Libia, le rivolte, che come chiamarle ancora non lo so, nel Nord Africa, in Medio Oriente, nella penisola arabica, stanno impattando, io aggiungo anche, cercano di farci credere che stanno impattando sui nostri territori. Quindi questa giornata di formazione prendeva in considerazione sia il cambiamento delle rotte migratorie, perché ovviamente la Libia è terra di passaggio non solo per appunto tutto il Nord Africa, ma per l'Africa subsahariana, per il Corno d'Africa, e sia anche capire poi quella logica enorme che c'è dietro di sfruttamento che inizia nei paesi di origine e poi arriva anche nei nostri paesi. Diciamo che è interessante da questo punto di vista per l'iniziativa, per come l'avete costruita voi dell'osservatorio, e vi ringraziamo di averci comunque fatto partecipare. È stato interessante anzitutto le modalità, nel senso mettere assieme persone con differenti competenze. Si partiva dalla testimonianza individuale, ricordiamo di Sidi, questo nigerino di Agadez, che appunto è uno dei centri più importanti dei corridoi migratori, diciamo, dell'Africa subsahariana in Niger, con la partecipazione poi di questo giornalista del Manifesto, Stefano Liberti, che si è occupato negli ultimi anni dei processi migratori dall'Africa subsahariana e quindi di tutte le migrazioni transahariane fino alla Libia e poi nella penisola italiana, e poi noi di Africa in Movimento con molti, molti interventi. Qual era l'idea? Faccio una breve sintesi, giustamente perché non tutti quelli che ci ascoltano erano lì, anche se appunto la presenza era abbastanza numerosa. L'idea era anzitutto di sfatare alcuni miti sulle migrazioni che dall'Africa subsahariana si portano verso nord. Il primo mito tra tutti è stato appunto quello che tutte questo tipo di migrazione sia comunque una migrazione di disperati, appunto di dannati della terra, usando appunto questa immagine di Fanon, che si riversava sulle coste appunto settentrionali del Mediterraneo. In realtà, secondo quanto ci diceva Stefano Liberti, è una migrazione, diciamo tra virgolette, medio borghese, per coloro che arrivavano fino alle coste settentrionali del Mediterraneo. Perché? Perché il viaggio dall'Africa subsahariana fino al Mediterraneo settentrionale costa tanto, molto spesso sono intere famiglie che o comunque una famiglia allargata che cerca di sostenere un unico individuo, un'unica persona a fare questo viaggio, un viaggio che si fa in più tappe, quindi che non è vero che c'è solo un'unica organizzazione criminale che organizza questa migrazione, assolutamente no, molto spesso è una migrazione che avviene di carattere in maniera abbastanza informale fino alle coste del Nord Africa, che può richiedere anche 4-5 anni. Quindi questo è il primo tabù da sfatare. Secondo tabù da sfatare: non tutti gli africani vogliono arrivare dell'Africa subsahariana, vogliono arrivare in Europa. Questo appunto scoop, lo diciamo, nel senso che molto spesso in realtà la ricerca di lavoro porta molto spesso le popolazioni africane o comunque i migranti a cercare lavoro proprio in Africa del Nord, in realtà. Quindi le migrazioni sono più che altro interne all'Africa stessa. All'Africa, quindi è un fenomeno questo che appunto, come a proposito di quel discorso che dicevi, che dagli anni 90 la industrializzazione, ossia l'arrivo di capitali europei o nordamericani in questi paesi del Maghreb, hanno messo in moto delle industrie. Poi ultimamente con la crisi hanno un po', però fino a prima della crisi c'era, e quindi questo richiamava anche forza lavoro. In Libia, per esempio, la presenza di lavoratori dell'Africa subsahariana è enorme, soprattutto i lavori manuali vengono quasi tutti fatti, o comunque i lavori veri e propri vengono fatti prevalentemente da lavoratori. Sì, infatti dalle ricerche che Liberti e comunque altri studi hanno fatto sul fenomeno migratorio verso la Libia, si vede bene come in realtà già negli anni 70 la Libia fosse un paese di immigrazione, soprattutto in realtà delle popolazioni Tuareg, che inizialmente appunto furono cooptate da Gheddafi nei primi anni del suo governo, furono spinte a stabilizzarsi nel paese e partecipare ai processi di industrializzazione e di gestione, diciamo, del terreno, proprio del territorio. Successivamente, nel periodo della cosiddetta politica africana o panafricana di Gheddafi, lì si incoraggiò molto l'immigrazione dall'Africa subsahariana verso la Libia. Ricordiamo, la Libia è un paese enorme, di un'enorme estensione, ma con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, quindi appunto la densità di popolazione è davvero bassissima, tra le più basse al mondo, quindi serve ancora tutt'oggi una manodopera a basso costo in Libia, che è stata appunto molto spesso attinta dall'Africa subsahariana. La cosa interessante durante l'iniziativa è stata poi la riflessione su come hanno influito i conflitti attuali o le rivolte sulle dinamiche proprio migratorie, cioè come le rotte migratorie stiano cambiando oggi in funzione di questi conflitti. Abbiamo parlato per esempio del fatto che molti appunto africani dell'Africa subsahariana in realtà ora si stanno indirizzando più verso l'Algeria e meno verso la Libia. Abbiamo affrontato l'argomento poi della migrazione come strumento politico, no? Nel senso che appunto nel panorama mediatico occidentale abbiamo visto dei barconi con appunto stipati 800-1000 persone all'interno, con un'accelerazione che in realtà non è stata molto maggiore rispetto a quella degli anni passati, come ci diceva Stefano Liberti. Quello che però colpiva molto era che in realtà sembravano dei barconi fatti apposta per essere mediatizzati dalla stampa occidentale e quindi instillare la paura dell'invasione, e dallo stesso tempo quindi condizionare potenzialmente le elite politiche occidentali nell'intervento bellico, quindi per evitare. Tant'è che, se vi ricordate alcune prime pagine della Padania, si diceva meno guerra, meno clandestini, proprio perché l'ottica era proprio quella. La cosa su cui volevo insomma soffermarmi insieme magari a Veronica era vedere l'iniziativa che abbiamo costruito assieme, alla quale abbiamo partecipato noi della radio insieme a voi dell'osservatorio, è appunto un'iniziativa, è un passo, un piccolo tassello di un percorso più ampio, che prevede anzitutto una forte analisi, un'importante analisi del fenomeno migratorio versus comunque l'Occidente, versus l'Europa, e poi naturalmente anche una analisi delle pratiche da adottare, no? Beh, certo, appunto, occupandoci di immigrazione, o meglio, lavorando con gli immigrati, la conoscenza parte dei paesi di origine è infinita e senza fine, ma anche proprio delle dinamiche che portano ad arrivare, a spostarsi, a decidere di fermarsi in un paese piuttosto che invece andare in un altro, avere una migrazione transfrontaliera. Quindi questo è il nostro lavoro. Poi ovviamente è un lavoro che esula dalle dinamiche internazionali, ma allo stesso tempo è completamente dentro, visto che ho lavoro con gli immigrati che, come avete detto, sono diventano da entrambe le coste del Mediterraneo materia politica. Quindi vengono lanciati su barconi in condizioni di zero sicurezza dalle coste dell'Africa per creare una destabilizzazione in Europa, in Italia. L'Italia in questo è molto brava, a creare un allarme che però, a dire di chiunque, l'abbiamo detto all'incontro di mercoledì, lo dicono i numeri, ecco, dicono i numeri, non lo dice certo, la statistica, è un allarme che è inesistente. Certo. È un allarme anche quello, appunto, costruito a tavolino. Ha detto pure perfino la Merkel, perché diciamo, quando chi era Maroni ha chiesto l'aiuto dell'Europa, ha detto: guardate che a noi in 6 mesi ne sono venuti più quanti ne sono venuti in 10 anni a voi, quindi non rompete l'anima. Sì, appunto, di esempi, cioè la vicina Tunisia ad oggi è in fiamme, il confine tra la Libia e Tunisia, proprio per un problema di profughi che tra l'altro provengono dal Corno d'Africa, perché sono poi da sempre quelli che non trovano mai collocazione, perché tornare nei loro paesi ha un costo non indifferente. Quindi appunto è cercare questo e poi ritrovare nel nostro lavoro sul territorio tutti questi problemi. Adesso faccio appunto, le vertenze dell'osservatorio sono numerose. Una delle più consistenti, che va avanti quasi in parallelo alla nascita dell'osservatorio, è quella che riguarda l'accoglienza dei lavoratori africani subsahariani deportati da Rosarno in diverse città italiane nel gennaio 2010. E lì c'è stata appunto la dimostrazione lampante come un meccanismo di accoglienza, nella fattispecie rivolto a richiedenti asilo, rifugiati, quindi persone che in base a leggi internazionali a cui l'Italia ha sottoscritto hanno diritto a un trattamento puntuale, si sono trovati completamente abbandonati, tra l'altro sapendo appunto il governo italiano tanto premuroso della clandestinità, che abbandonava in giro per l'Italia dei clandestini. Quindi è lì è scattato questo meccanismo di primo accoglienza emergenza proprio, e ovviamente anche cercando sostegno in chi quello lo fa, nelle istituzioni preposte, nelle associazioni, nelle strutture, nel Comune di Roma, un silenzio assordante che allo stesso tempo però a noi ha dato la possibilità, insieme a questi ragazzi che si sono costituiti in assemblea, hanno costituito appunto l'Assemblea dei Lavoratori Africani di Rosarno, abbiamo iniziato un processo di auto-organizzazione, di autorivendicazione, di rivendicazione, che è partito dall'accoglienza fisica materiale, che è stata relegata a appunto l'ex SNIA nella fattispecie, che fa parte anch'essa dell'osservatorio, e ad altre occupazioni in giro per la città, a un'accoglienza. Poi si è passati alle rivendicazioni che riguardavano il permesso di soggiorno, il diritto anche a un'abitazione dignitosa che è duratura nel tempo, e la rivendicazione poi quella più difficile ancora ad oggi in corso, non solo per loro, il diritto ad un lavoro regolare e dignitoso. Quindi attraverso questi tre momenti della vita di chiunque stiamo costruendo ancora un percorso che è ostacolato ancora ad oggi viene ostacolato da un'assenza di volontà, diciamo, che questo, da parte delle istituzioni. Assolutamente, questo percorso che è stato appunto, che avete costruito con i lavoratori di Rosarno, è un percorso anche emblematico, no? Perché da una parte l'assenza delle istituzioni, e qui ci mettiamo anche naturalmente i sindacati, quindi la CGIL, e poi se vogliamo approfondiamo anche un attimo questo argomento, ha provocato però non paradossalmente, quasi fortunatamente, per fortuna, insomma, un processo di autoresponsabilizzazione delle persone che si sono trovate a dover confrontarsi con questo tipo di realtà, a comprendere veramente qual è la natura poi di queste organizzazioni sindacali, politiche, che poi fanno dell'immigrato, dicono sempre che appunto che sia una risorsa, bla bla bla, e poi alla fine in realtà nella pratica non si occupano sostanzialmente del problema, o comunque lo trattano come un problema solo a livello teorico, però non cercano in realtà una politica di coinvolgimento reale. Quindi quello che mi piacerebbe capire anzitutto nella questione di Rosarno, perché in quanto questione emblematica trattata dall'osservatorio, qual è stato l'atteggiamento delle appunto istituzioni e cosa poi è scattato per provocare appunto questa autoresponsabilizzazione, cosa ha portato e cosa potrebbe portare poi nelle prossime appunto settimane, nei prossimi mesi. Ecco, io aggiungo questa domanda così poi tu Veronica le fai un po' tutte. Ecco, a me anche interessa conoscere da chi appunto lavora più sul terreno di questi percorsi di auto-organizzazione migrante, come procede, cioè c'è una ricettività da parte diciamo di queste persone, di questi lavoratori in realtà, di assunzione della consapevolezza di essere forza lavoro e quindi della necessità in prospettiva di trovare quelle dinamiche che li uniscano a parte le specificità che hanno punitive oggi, no? Mancanza del permesso, eccetera, ma a trovare in prospettiva, sapere che soltanto in una prospettiva di unione con le altre forze del lavoro, con il resto del mondo del lavoro auto-organizzato, possano trovare soluzione ai loro problemi, oppure è ancora, senza ovviamente dover saltare, il percorso è ancora lungo e difficile. Non so, Allora io parto da qui proprio perché sì, il percorso è lungo e difficile, a mio dire è lungo e difficile in qualsiasi realtà auto-organizzata. Nella fattispecie dei lavoratori africani da Rosarno sicuramente l'antefatto, ovvero la rivolta e la portata mediatica che ha avuto quella rivolta, diciamo che non so, che è stata percepita fino a un certo punto da loro, perché lì c'è l'accesso poi ai mezzi di comunicazione e la lingua, però da lì poi nel lavoro con il territorio di costruzione insieme, diciamo che si sta delineando questa consapevolezza di dire c'è un percorso di auto-organizzazione perché ho bisogno di qualcosa, e sicuramente il bisogno è uno dei primi fattori, soprattutto per chi non ha tutele, a partire dalla comunicazione, cioè non c'è la possibilità di comprendere, capire, e quindi del bisogno, e poi anche della, in un certo senso io quando parlo con loro la chiamo la responsabilità che loro hanno per aver diciamo dato via ad aver creato un precedente, per aver appunto detto se si alzi la voce si ottiene qualcosa, qualcosa la smuovi. Sì. Poi, ritornando invece alle questioni che poneva Anthony, la voce noi l'alziamo insieme, quando io dico noi, poi adesso per semplificare intendo l'assemblea, l'osservatorio, l'alziamo però nei percorsi di auto-organizzazione e di rivendicazione, molto spesso anche questo alzare la voce dall'altra parte istituzionale non ha nessun effetto. Io faccio un esempio, appunto, io prima ho tirato fuori tre questioni: la questione del permesso di soggiorno, la questione dell'accoglienza e la questione del lavoro. La questione del permesso di soggiorno ad oggi può essere definita una vittoria ottenuta, 140 permessi di soggiorno per motivi umanitari presso la Commissione Territoriale di Roma per quanto accaduto a Rosarno, quindi sicuramente anche in base agli atti si è creato un precedente, ovvero sono stati concessi 140 permessi di soggiorno per le condizioni socio-lavorative abitative subite a Rosarno. Anche per la rivolta. Sì. Perché se non avessero. Cioè, quello sicuramente ha avuto. Se non si fossero alzati in piedi. Un ruolo fondamentale. E lì, ovviamente, non so neanche a dire il lavoro enorme che c'è stato della ONLUS Progetto Diritti, che sta all'interno, questo sportello di assistenza legale, che anch'esso sta all'interno dell'osservatorio, che comunque svolge un lavoro sul territorio legale enorme, e quindi da quel punto di vista noi possiamo rivendicare una prima vittoria. Di quanto riguarda l'accoglienza, in molti casi è ancora affidata appunto alla provvisorietà, alla buona volontà, ai rapporti di amicizia, di solidarietà, e in parte sono entrati nel meccanismo di accoglienza del comune per i richiedenti asilo, quindi in queste case che hanno tempi di attesa molto lunghi, però ecco, anche lì è stata una soluzione, cioè diciamo quasi naturale, però non è stata una soluzione politica da parte delle istituzioni, che comunque loro come soggetto si erano identificati. Per quanto riguarda invece il percorso di inserimento lavorativo, beh lì, lì siamo ancora molto indietro, perché lì come osservatorio abbiamo iniziato un percorso di richiesta nei confronti della provincia, chiedendo formazione retribuita, considerando il mercato del lavoro locale a livello quindi provinciale in agricoltura. Faccio un passo indietro. Il tutto è nato nell'aprile dell'anno scorso con un accordo tra provincia e provincia di Roma, l'assessorato all'agricoltura e le associazioni datoriali in agricoltura, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Lega Coop e Confcooperative, che hanno appunto stilato questo protocollo in cui si impegnavano ad assumere questi lavoratori provenienti da Rosarno. Molti di loro avevano anche già un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, venendo appunto da paesi in guerra, in conflitto. Quindi c'erano le condizioni, erano ideali, lavoratori irregolari pronti per essere assunti. Questo non è mai accaduto. Ci sono stati sit-in di protesta dove è stata colpita l'immagine, quella è una cosa poi che ovviamente tocca molto, tocca molto soprattutto a chi come la Coldiretti stessa si rivendica il concetto del Made in Italy, e lì quindi è iniziato sia un percorso più puntuale, specifico, di richiesta di autoformazione con inserimento lavorativo da parte della provincia, ovvero si è chiesto l'utilizzo della provincia degli strumenti che ha già, si è chiesto una maggiore in sinergia con i centri per l'impiego, fare della formazione, ma questo appunto potrebbe essere esteso a qualsiasi lavoratore che abbia effettivamente un senso con le esigenze di mercato. Quanti corsi da meccanico, meccanici non servono, quindi attraverso anche consulenze di addetti ai lavori in agricoltura, quindi il lavoro è stato enorme e ad oggi noi aspettiamo ancora una risposta di Zingaretti nella fattispecie, che dia il suo placet a questo semplicemente attivazione degli strumenti protocollo, diciamo, abbastanza rodato. Non del protocollo, degli strumenti che, a prescindere dal protocollo, che ha un valore più che altro simbolico, a disposizione per poter appunto inserire lavorativamente queste persone. Dall'altra, poi, sul discorso lavorativo c'è anche invece un lavoro più nazionale, che ci vede in rete con altre assemblee di lavoratori africani e a Castel Volturno e a Rosarno, appunto, luoghi diciamo emblematici per l'immigrazione, soprattutto proveniente dall'Africa subsahariana, sfruttamento lavorativo e in agricoltura e in edilizia, perché poi in quelle aree si alternano le due forme, i due tipi di lavoro. E ovviamente poi con l'obiettivo, e qui mi riallaccio a una delle domande fatte da voi, non di creare una specificità subsahariana, questo non è ovviamente il nostro obiettivo. Il lavoro è ancora lungo anche in quel senso, perché sicuramente c'è un maggior collante tra africani, tant'è che le assemblee che si tengono a Castel Volturno vengono ogni tanto partecipate dai ragazzi che si trovano qui. Cioè, c'è un lavoro in rete con difficoltà, soprattutto con la prima difficoltà che è la lingua, quindi in ogni assemblea vengono fatte minimo 3 traduzioni, questo ovviamente triplica i tempi quindi il cammino è ancora lungo. Quindi, da quel punto torniamo di anche vista. Poi ad uno dei temi trattati mercoledì scorso, no? In riferimento proprio al problema. Cioè, tu dicevi adesso di bisogno, il bisogno che comunque fa scattare qualcosa, lo vediamo anche ultimamente per quanto riguarda la Fincantieri, la Finmeccanica, insomma, a Genova, Castellammare, dove comunque anche lì c'è stata però una partecipazione anche di migranti alle mobilitazioni, perché comunque partendo dal bisogno poi bisognerà vedere che esiti appunto purtroppo porterà. Purtroppo non sembrano così. C'è la concorrenza dell'est europeo. Assolutamente, assolutamente sì. Però appunto partendo dal bisogno sicuramente si possono anche, non dico distruggere, ma almeno sorpassare delle dinamiche di carattere comunitario etnico che sono tradizionali, insomma sono nella storia delle migrazioni di tutti i tempi, la stessa italiana quando andava all'estero. Poi naturalmente maggiore è il processo di politicizzazione all'interno di queste comunità, maggiore è la rivendicazione, sempre nella nostra ottica, insomma, la rivendicazione di diritti per tutti in quanto appunto forza, in quanto lavoratori, non forza lavoro. Ci prendiamo uno stacco musicale e poi riprendiamo, perché è mezz'ora che parliamo. A tra poco. E allora riprendiamo la trasmissione, appunto rivolte nell'Africa e il problema dell'immigrazione, e quindi questa seconda parte volevamo chiedere appunto a Veronica di definire, chiarire bene, raccontarci bene qual è le iniziative prossime, soprattutto quelle in corso e quelle prossime, dell'attività appunto dell'osservatorio, anche all'interno delle difficoltà che già in parte accennato e che si possono ampliare, che non solo della non corrispondenza, della non collaborazione delle istituzioni, ma addirittura degli ostacoli che questi mettono in corso nella vostra attività. Ok, allora, rispetto al discorso specifico dell'autoformazione, è appunto, come abbiamo detto, al secondo appuntamento. Eravamo lo scorso mercoledì e nel mese di giugno ce ne sarà sicuramente un altro, che cercheremo di incentrare di più proprio sul tema dell'accoglienza, per l'appunto, un'accoglienza che si sta delineando in questo paese abbastanza, a mio dire, anche pericolosa, dove le caserme diventano CIE attraverso delibere impellice, veloci e improvvise, dove si creano zone di tensione sociale volutamente, in un certo senso. Però ecco, poi queste riflessioni le lascio a il prossimo incontro. Questo incontro, ovviamente, per noi un apporto fondamentale è che la partecipazione anche degli immigrati, quindi all'incontro precedente, oltre ad essere presente un uomo dalla pelle scura tra i relatori, che in genere è abbastanza raro, appunto Suleiman Cissé, che lui viene da Agadez nigerino, in Italia da molto tempo, lui lavora con associazioni di bambini, diciamo, ha un lavoro effettivo in un certo senso tra il Niger e l'Italia, però è anche la partecipazione tra gli astanti, ecco, all'incontro di immigrati, che possono dare un contributo fondamentale, nel senso fornire quelle informazioni in un momento, un percorso autoformativo importantissime, uniche, anche perché molto spesso molte zone sono inaccessibili, perché le rendono tali, le rendono appunto inaccessibili dall'esterno a chiunque. In generale, poi, invece, l'osservatorio si riunisce appunto ormai da 2 anni, ogni mercoledì alle 9:30. Prima si riuniva, fino a un paio di settimane fa, appunto all'Isola Pedonale, via del Pigneto 22, i famosi spazi dell'ex Serono, la casa del quartiere, anche lì, appunto, adesso non mi soffermo, però ecco, per raccontare le difficoltà nelle difficoltà, è quello che diceva Salvo, appunto, l'ostacolo delle istituzioni, cioè o l'assenza o l'ostacolo. Nella fattispecie, appunto, ci troviamo non solo noi, ma le numerose associazioni che in questi 2 anni hanno animato, hanno dato vita a uno spazio morto, se no, che sarebbe stato morto, all'interno del Pigneto, quartiere importante, pieno di immigrati, che ad oggi alla risposta di immigrati, bambini, giovani, si risponde con bar, locali, ristoranti, e invece appunto la casa del quartiere era uno di quei luoghi dove si poteva anche fare altro, e in effetti le realtà che ci stanno sono numerose, dal comitato del quartiere del Pigneto, ovviamente, a noi l'osservatorio, alla Vertenza Roma, di cui anche all'interno l'osservatorio fa parte, il comitato per l'acqua, l'associazione dei genitori, un centro di aggregazione comunque importante, più ne ha più ne metta, ecco, che ad oggi ci troviamo a non avere più fisicamente, quindi anche quello ovviamente è un problema, perché dove ti riunisci, dove ti vedi, e c'è appunto anche lì l'ostacolo delle istituzioni che ti vogliono rinchiudere negli spazi e nei ghetti. Questo. Beh, ecco, anche rispetto alla dinamica, diciamo, che si prevede sul prosieguo, ovviamente è estremamente contraddittorio, c'è questo elemento nuovo che anche l'attentato in Libano, anche se non riguarda direttamente, però secondo alcuni anche anche l'attentato in Libano di ieri, anche se non riguarda direttamente le rivolte nel Maghreb e anche in Egitto, però in qualche modo, rientrando in quella stessa area, può avere delle incidenze. Diciamo che tutto il Medio Oriente, il grande Medio Oriente, quindi dal Marocco fino appunto alla regione del Libano, siro-libanese, toccando anche per la penisola araba, sta vivendo un processo di rinnovamento importante, bisognerà analizzarlo con attenzione, perché in realtà ogni realtà puntuale, non solo di Stato-Nazione ma anche all'interno degli stessi Stati-Nazione o dei provvisori agglomerati territoriali come Gaza, che ancora non hanno un riconoscimento statuale, stanno subendo delle evoluzioni importanti che fino ad oggi in realtà non erano esplose, e che molto spesso anche per i regimi che erano al potere, anche per colpa nostra e dei media in generale, non avevamo visto. Le rivolte più evidenti ci hanno mostrato delle dinamiche di politicizzazione importanti che dal basso si sono prodotte, e ci hanno anche mostrato l'atteggiamento delle potenze occidentali, in primis di proprio cooptazione, o comunque almeno di per cercare di controllare questi processi di trasformazione. Quindi questo naturalmente modifica appunto tutto, cioè, quando si parla del Mediterraneo, che è davvero un mare, cioè un continente a sé, è proprio perché in realtà un conflitto del genere o una serie di rivolte che provocano comunque instabilità all'interno di un bacino come quello del Mediterraneo, provoca modifica ai flussi migratori, provoca modifica dal punto di vista anche delle comunità migranti all'interno del continente europeo, provoca modifiche poi sulla questione israelo-palestinese proprio in una maniera eclatante, lo si vedrà soprattutto nei prossimi mesi, e già appunto altre trasmissioni ne hanno parlato di quello che si sta costruendo appunto contro le popolazioni palestinesi di Gaza e del West Bank. Quindi c'è tanto da vedere. Fortunatamente abbiamo molte più fonti per cercare di renderci conto della realtà e delle correnti che si muovono dal basso e che fino adesso comunque non avevano tanta voce, sempre da analizzare insomma in maniera critica, quindi insomma vedremo poi nelle prossime settimane. Certo, quindi possiamo diciamo concludere vedendo queste due dinamiche che arrivano in quell'area chiamata appunto il Grande Medio Oriente. Da una parte quest'opera, questa azione di rinnovamento dal basso, di rivolte che stentano però che continuano con volontà, con pervicacia di andare avanti, dall'altra parte questo terreno che è diventato, probabilmente anche grazie alla crisi che scuote appunto il mondo capitalistico ma anche alle dinamiche energetiche, diventa terreno di battaglia interimperialista, dei grandi dinamiche aree imperialistiche che non sono più le storiche Nord America ed Europa, ma a cui si sono affiancate appunto Cina, Russia, nelle nuove politiche imperialiste, l'Arabia Saudita eccetera, quindi terreno di scontro tra le potenze imperialistiche per dinamiche economiche ed energetiche. Sì, sì, ed anche vari, geopolitiche. Assolutamente, tra i vari fenomeni infatti che abbiamo evocato anche mercoledì scorso, ora non abbiamo del tempo di approfondirlo perché è una questione abbastanza grande, ci riserviamo di farlo nelle prossime settimane, anche tutta la questione appunto del land grabbing, no? Dell'accaparramento di terre, cioè di questo nuovo sfruttamento neocoloniale delle terre nel continente africano, ma anche nella parte, cioè non solo nell'Africa subsahariana, questo sta avvenendo anche appunto in Egitto in realtà, dove l'intervento, il cosiddetto soft power delle potenze emergenti cinesi, indiane, delle monarchie petrolifere, tutto sta portando ad uno sfruttamento delle popolazioni legate al territorio inedito, con delle dinamiche inedite che porterà sicuramente a dei cambiamenti anche di carattere politico, perché non ci sarà più un monopolio egemonico quasi appunto delle potenze occidentali nel magari sostenere militarmente un dittatore per avere un controllo su un determinato Stato-Nazione. Si sta parlando di accordi economici di vastissima portata sulle aree, e quindi porterà anche a una modifica sostanziale, per esempio anche qui, dei fenomeni migratori. Certo. Quando si costruiscono infrastrutture su un posto, si cerca manodopera a basso costo in quel posto. Esatto. Senza quindi andare, più insomma, che politiche, che politiche sui regimi, politiche sui territori. Sì, quindi sì, questa proprio, quindi una modificazione, bene, proprio terra diventa, è chiaro, gioca un ruolo essenziale insomma. Certo. Va bene, e per esempio basta vedere, ma questo per portarla in un altro terreno, però lo scontro è avvenuto anche sul terreno della Banca Mondiale, dove il famoso BRICS, Brasile, India, Cina, Russia, ma anche Sudafrica, quindi le nuove potenze che stanno lì pronte a partire, le nuove tigri, che hanno chiesto, hanno detto che non ci va più bene la gestione della Banca Mondiale, del Fondo Mondiale Internazionale, sempre a due tra Stati Uniti ed Europa, vogliamo entrarci anche noi. E questa cosa prelude anche al fatto che su queste politiche di controllo territoriale sono molto avanti, altrimenti non avrebbero preteso la leadership, sì, di questi di chi c'ha, diciamo, della borsa, sì, di chi c'ha in mano i soldi. E quindi questa cosa è da seguire con molta attenzione. Sì, c'è molta carne al fuoco. E va bene, vi ringrazio quindi, ci sentiamo intanto sabato prossimo sempre per seguitare questa analisi, e per quanto riguarda l'osservatorio, quando riprenderemo questo discorso, intorno a un mese sarà quando sì, sarà, diciamo, cioè, per il mese di giugno organizzeremo, d'accordo. Grazie a Veronica, grazie a Anthony, ciao, alla settimana prossima, e un saluto da questa voce a tutti coloro che ci hanno ascoltato, in particolare a chi è privato della propria libertà.